Vaga nel buio, la luce che trafigge pareti ti colpisce. L'acqua in una torrida giornata, il sole dopo la pioggia battente. Se nel mare gridate d'inverno, la barca sul mare in tempesta. Il risultato di quel fottuto problema è il problema che non avete.